in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri. Questa mattina di venerdì 20 settembre 2013 abbiamo una temperatura un po' incerta, questo sole incerto che si fa vedere, non si fa vedere, ma noi ci auguriamo di, appunto, di trascorrere un buon inizio di fine settimana. Appunto, questo è il penultimo fine settimana di settembre, siamo quasi alla fine dell'estate, perché domani si sa dovrebbe iniziare l'autunno, però ancora noi speriamo ancora di godere di questo, di un bellissimo sole, del caldo che comunque c'è un po' mancato per quest'estate, che è stata più fresca dell'anno scorso sicuramente, questo dobbiamo ammetterlo. E quindi noi con la nostra musica di CRM Happy Radio dobbiamo un po' riportare il sole nelle nostre case, e lo facciamo con la bellissima musica di Michael Franti e Jovanotti, The Sound of Sunshine. Buongiorno ancora con CRM Happy Wake Up. Yeah, my friend, my friend. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, ecco. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole. That's the sound of sunshine coming down. Su di noi, su di noi, su di noi. What's up, man? You got a little work or 20 to lend. I open up my hand and said I'm glad to see they can take away my job, but not my friends, you see. And here I am, just waiting for the storm. Sulla spiaggia il profumo di una vela, il sole che mi scalda, le onde in movimento, profumo di abbronzante che si spande nel vento. In the ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song is a little releasing. Sbaglio che suona, un ritmo che rilassa, e tutto il meglio resta, il peggio invece passa. Cade dentro il mare. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole, battito del sole. That's the sound of sunshine coming down. Battito del sole, battito del sole, battito del sole. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. you won't do, 'cause you know that you're just mine. I'm alive this evening. It was love at first sight. Of this Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone standing in line. Yeah, looking good and looking for a real good time. So I'll never have to wonder. Questa era CeeLo Green, Bring Light to Bigger City, a CRM Happy Wake Up, un suono un po' diverso da te che trasporta e che comunque vi aiuta a alzarvi dal letto. Spero di sì, questa mattina appunto di venerdì, e si sa che il weekend è quello un po' che è dove uno si riposa, si rilassa dalle fatiche della settimana e non si fanno più le diete, ecco. E infatti è un dato raccolto dal sondaggio realizzato in Gran Bretagna per conto di una marca di integratori alimentari, e i risultati sono stati pubblicati sul Daily Mail. E infatti le diete sempre cominciano, si sa che incominciano il lunedì, naturalmente quello successivo al giorno in cui formuliamo il buon proposito, ma se anche ci armiamo di bilancia e buona volontà, si sa che poi per il weekend un po' con un carico di convivialità e di allegra compagnia travolge a colpi di buoni sapori tutti i nostri buoni propositi e ci spinge a vere e proprie abbuffate. Secondo questo studio britannico, appunto, sono addirittura 10.000 in due giorni le calorie che assumiamo. Pensate un po', infatti il fabbisogno calorico quotidiano, si sa, è di circa 2.500 calorie per gli uomini e di 2.000 per le donne. E nel fine settimana, secondo quanto emerge dal sondaggio, il 57% dei maschi consuma regolarmente 10.000 calorie, distribuite in questo modo: 3.500 calorie nella notte di venerdì e sabato, per un totale di 7.000 fra cene e drink, e 3.000 calorie la domenica. Più o meno lo stesso fanno le donne: il 46% arriva al record delle 8.000 calorie in un fine settimana. Pensate un po', quindi dovete un po' regolarvi un po', anche se è giusto comunque trascorrere il fine settimana un po' più riposati, rilassati, anche davanti a un bel piatto di pasta oppure una bella cena con gli amici. Però se avete questo buon proposito di fare la dieta, quindi di regolarizzarvi un po' nella vostra alimentazione quotidiana, dovete stare attenti un poco a questo. Ma intanto noi diamo le nostre coordinate per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335 56 37 25, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci streaming al sito www.crmepiradio.it o su Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. Non mi capisco, perdo il controllo, faccio paura addirittura anche a me stesso, ti trovo dentro ogni ricordo, è come un pugno che fa male, male di brutto, inerme incasso, e mi convinco un'altra volta che non è finito tutto. Non cancellarmi, piuttosto dammi almeno un'ora per parlarti e per sfogarmi. Non serve a niente, me l'hai già detto, ma abbi il coraggio di guardarmi dritto dentro agli occhi. Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dove posso andare adesso? Dimmelo.

Ravici ci invoglia a svegliarci con Wake Me Up, e sempre qui a CRM Happy Wake Up in compagnia di Patrizia Curreri. Vi terrà compagnia fino alle 11 circa, così poi dopo di me ci sarà Peppe Carrozza con Around the City, e quindi una mattinata piena di musica e anche di notizie curiose e divertenti, come facciamo noi di solito per allietare la vostra giornata. Anche nel pomeriggio poi ci sarà dalle 15 alle 17 Jerry con Semplicemente Insieme, e così via con la programmazione di CRM Happy Radio, finendo alle 21 con Rock Revolution e con Non Filippo e Simone Brancato, con la bellissima musica rock che vi terrà svegli fino a mezzanotte. Come vi terrà svegli sicuramente a Toronto la grande strobosfera, che noi più conosciuta come palla da discoteca più grande del mondo. Infatti lo scorso giugno, l'occasione del Toronto Illuminato Festival, è stata creata questa grande strobosfera, così si chiama, la grande sfera a specchi, che aveva un diametro di 7,9 metri ed è stata collocata per tutta la durata del festival all'aperto, una delle piazze centrali della città, sollevata da una gru a un'altezza di circa 65 metri, creando effetti così luminosi decisamente insoliti nel centro cittadino di Toronto. L'ideatore, l'artista Michael De Bron, e spiega che la sua idea, più che alle discoteche, era ispirata alle stelle, sempre più invisibili oggi a causa dell'illuminazione artificiale delle città, e quindi togliendo uno spettacolo che la sfera si riproponeva poi di sostituire, almeno in parte. Infatti, vedendo un po' delle immagini, veramente lo spettacolo è decisamente eccezionale, e vabbè, certo non può sostituire quello che un po' trasmettono le nostre stelle del nostro universo, però veramente qualcosa di insolito, di veramente da vedere. Chissà se il prossimo giugno a Toronto ci sarà la stessa atmosfera, speriamo. Ma parlando di discoteche, non possiamo non ricordare e non sentire i nostri concittadini Caruso Valenciano con Oh Mami Daddy. I mean, the right one will love me for who I am and love for what I got. Caruso Valenciano, let's take this music to another level. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, eh. Oh, eh, oh, eh. Right one will love. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, eh. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Con te era il grande Marco Mengoni, pronto a correre. Ricordiamo appunto Marco Mengoni, che è stato il vincitore del Festival di Sanremo anno 2013, appunto di quest'anno, e che sta facendo ancora successo con le canzoni appunto presenti nel suo ultimo album. E siamo ancora qui a CRM Happy Wake Up e parliamo un po', discutiamo un poco su un fatto un poco che Mi fa pensare comunque ai miei ricordi, ai miei tempi tra i banchi di scuola e in compagnia del nostro amatissimo diario. Si sa che appunto il diario non solo è un oggetto, cioè un'agenda dove noi scrivevamo comunque i nostri compiti per il giorno dopo, per i giorni a venire, ma anche era un po' un rifugio dei nostri pensieri e dei nostri sfoghi e di come passavamo un po' le giornate a scuola, magari anche fuori, almeno io lo usavo così, un po' come un diario di bordo, ecco, della mia avventura, delle mie avventure scolastiche. Ebbene, adesso con l'avvento della nuova tecnologia, questa il diario verrà sostituito, almeno per la maggior parte degli studenti, per quelli un po' più grandi, quindi 18 anni, o coloro che studiano gli studi professionali, e utilizzeranno appunto un'applicazione dove si può appuntare, si possono mettere gli appunti, ma anche appuntare appunto lì i compiti della settimana. E infatti questo è stato un sondaggio, un'intervista fatta a 1000 studenti di medie e superiori, e quello che è uscito fuori appunto questi dati, ossia che gli studenti degli istituti professionali 18enni sono coloro che utilizzano maggiormente queste app del telefonino. Invece chi non rinuncia ancora al diario, forse perché ancora piccolini, ancora per il divieto in uso dei telefonini durante l'attività didattica, sono i ragazzi delle scuole medie, che appunto, non potendosi permettere di utilizzare il telefonino durante le ore di scuola, appunto appuntano i loro compiti sul diario. Ma c'è chi sono quelli più svogliati, che invece utilizzano un semplice quaderno al posto della costosa agenda, perché appunto c'è da dire anche questo dato, che adesso i diari non si possono più comprare. Io vedevo un po', giravo così anche se non mi importava niente, però se la curiosità, vedevo che ci sono quelli un po' più con, naturalmente con la marca, che costano circa 14 euro se non erro. È veramente un po' costoso, cioè tra poco costano più diari che libri scolastici. E inoltre vi ricordo un appuntamento per domenica, tutta la giornata ci sarà uno stand a Piazza Cristoforo Colombo, qua a Cefalù, quindi all'inizio del lungomare, e per chi conosce la prima scala, ecco, dove ci sarà uno stand con altri miei colleghi e colleghi, per adottare questi cani di cui parlo spesso nel mio programma, questi cani del canile di Cefalù, che però si trovano a Isnello, nel canile di Isnello, e che devono essere adottati perché hanno bisogno di una famiglia. E quindi chi vorrà potrà visionare un po' le foto che saranno presenti nello stand, ma ci sarà la presenza di due cagnolini che potete benissimo trovare, potete giocarci anche con i vostri bambini, un po' potete vedere, venite numerosi e accogliamo questi cani appunto nelle nostre case, nei nostri giardini, nelle nostre campagne, perché sono veramente fantastici e bellissimi. Infatti c'è anche un gruppo su Facebook, Amici Cani. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down. Shake the ground, you held me down, but CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. Questa era Calvin Harris, I Need Your Love, CRM Happy Wake Up. E si sa che noi qua facciamo anche un po' ridere, cerchiamo appunto di svegliarvi con un sorriso, perché appunto noi tutti ne siamo dotati. Non sono d'accordo quelli del Sud Corea, che stanno diffondendo un intervento estetico piuttosto particolare. Perché? Perché vengono modificati gli angoli della bocca in modo da dare al volto un effetto di perenne sorriso. In pratica agli angoli della bocca vengono fatte delle piccole incisioni verso l'alto in modo da accentuare il sorriso, con un effetto però simile a far tornare in mente un po' Joker di Batman, specie negli interventi condotti da specialisti molto meno preparati. Altri però sottolineano che diverse donne coreane di mezza età, quando le guance iniziano un po' a cadere, tendono ad avere un aspetto sempre triste, specie se la bocca è piccola. E infatti molte spiegano che prima dell'operazione non erano in grado di avere un'espressione sorridente, adesso dopo l'operazione estetica possono dire che, anche se magari non mostrano tutti i denti, però hanno comunque un volto sorridente che appunto trasmette serenità magari a chi davanti a lei. Quindi dicono che comunque, a meno che questa operazione fa sorridere, ma noi cerchiamo di farvi sorridere in un altro modo, intanto ascoltando i Gemelli Diversi. Questa per farvi sorridere a voi di CRM Happy Wake Up, a tutti i miei fan, ciao! Una canzone solo per te.

erano i Capital Cities, Save and Sound, CRM Happy Wake Up, ancora con me, con Patrizia Curreri, in compagnia della bellissima musica di CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. E si vede, sì, si vede che anche tramite il nostro sito www.crmhappyradio.it, dove potete vedere appunto il programma in streaming. Potete vedere me qua in regia, che vi saluto, ciao! Saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedendo, ma potete anche partecipare voi al mio programma inviando un sms al 335-5637-251, telefonando allo 0921-92-3292 e scegliere o richiedere la vostra musica preferita, quella che vi suona nella testa e che certe volte uno si sveglia con una melodia e vuole per forza ascoltarla. Noi siamo qua a accontentare le vostre richieste e potete anche inviarcele tramite Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio, cliccando sul bottone mi piace, quello col ditone così, e potete diventare fan della nostra pagina e quindi essere aggiornati anche sulla programmazione giornaliera e appunto di CRM Happy Radio. E come si sa come chi mi conosce appunto e segue il mio programma sa che certe volte io un po' parlo, racconto appunto del rapporto tra la nostra grafia e anche il nostro carattere, grazie all'aiuto dell'esperta Candida Livantino appunto, che ci aiuta nel riconoscere un po' i tratti della nostra grafia in base appunto a riconoscendo chi è timido, chi è il fantasioso e passionale o l'ansioso. Questa volta un po' analizzeremo l'alfabeto, un po' come scriviamo, non tutto l'alfabeto ma un po' alcune lettere, come il modo in come li scriviamo appunto, che definiscono un po' parte della nostra personalità, perché naturalmente tutto non è un singolo segno che può definire la personalità, ricordiamo appunto di chi scrive, ma ci può dare qualche indicazione. Infatti partiamo con la T, e quando facciamo la T col trattino a forma di croce significa che siete combattivi, che lottate per una giusta causa. Quindi un po' guardate un po' la vostra grafia lì, spolverate un po' i vostri libri e vedete un po' i vostri quaderni, come scrivevate loro, come scrivete adesso, un po' vedete un po' se siete anche cambiati nel tempo. Poi la T invece col trattino sopra elevato indica un senso di superiorità, spesso nasconde ansie e insicurezze. Poi abbiamo la T con trattino corto, evidenzia che siete insicuri ed avete paura di esprimervi. Poi abbiamo la L con asola gonfia, siete persone dotate di grande fantasia e a volte confondete la realtà con i sogni. Poi c'è quando scrivete la A ovale, avete avuto un'educazione rigida che ha influito sulla formazione della vostra personalità. Poi abbiamo la G. Quando scriviamo la G con asola gonfia vuol dire che siete una delle persone passionali, dotate di una forte carica sessuale. Poi abbiamo invece la G con asola a forma di arco, significa che non riuscite ad esprimere appieno la vostra sessualità e investite le pulsioni nel mondo dell'arte. Poi spesse volte c'è chi utilizza molto spesso i puntini di sospensione. Questo è un modo di scaricare l'ansia sul foglio. Pensate un po', a me capita un po' molto spesso, anche quando scrivo i messaggini, metto sempre punti di sospensione, no? E quindi adesso mi è data appunto la spiegazione di questo modo appunto di esprimersi. Poi abbiamo la A con occhiello aperto, desiderate continue conferme affettive e tenerezze. Poi abbiamo chi quando scrive la I mette un cerchiolino al posto del puntino. In questo caso siete narcisi ed infantili. Questo è un po' i tratti appunto caratteriali in base al modo in cui scriviamo determinate lettere. Comunque curiosità, magari ingegno, chissà. Mettetevi alla prova, vedete un po' se veramente effettivamente questa nostra grafia può dare un po' l'espressione del nostro carattere, di quello che siamo e di quello che comunque proviamo internamente nel nostro profondo. Oh,

Charlie, appunto, c'erano presenti due cani del canile, e quindi potete anche adottarli immediatamente. Speriamo che siate numerosi e che accogliate questa iniziativa con grande passione, soprattutto perché chi ama gli animali si sa veramente ha un animo forse ancora più grande degli altri. Non so, io ho questa opinione, poi magari gli altri non saranno d'accordo, però io lo penso così. E infatti sono tanti gli amanti dei cani come questi un po' bizzarri, perché hanno fatto proprio un bed and breakfast, hanno costruito un bed and breakfast proprio a tema canino. Dog Bark Park Inn si chiama questo bed and breakfast, e che a partire appunto dalla stessa forma dell'edificio, che imita quella del fedele amico dell'uomo, ma anche gli interni sono arredati completamente a tema. E i proprietari appunto del bed and breakfast, che si trova a Cottonwood, hanno realizzato l'insolito albergo dopo aver maturato un'esperienza di quasi 20 anni nella realizzazione di opere d'arte in legno, che spesso avevano anch'esse protagonisti a quattro zampe. Quindi i due ideatori hanno creato appunto l'edificio a forma di beagle, quindi una razza di cane, e da adibire a bed and breakfast per gli amanti dei cani come loro. Sembra che l'idea abbia riscosso un notevole successo, con il bed and breakfast che è diventato esso stesso una meta turistica che ha attirato molti clienti curiosi. Ma soprattutto chi ha animali, chi ha cani a casa, e magari anche le vacanze sono un po' limitate, appunto adesso stanno nascendo appunto molti alberghi, molti bed and breakfast appunto per accogliere i nostri amici a quattro zampe. Quindi dobbiamo essere sollecitati da questo, e appunto adottare quanti più cani possibile, avere insieme alla propria compagna o proprio compagno anche un altro fedele amico come il nostro cane a quattro zampe. E quindi venite tutti 22 appunto settembre presso Piazza Cristoforo Colombo. No more. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. La nuova canzone di Lady Gaga, Applauso, CRM Happy Wake Up, ancora con me, con Patrizia Curreri. Ricordo che dopo di me, dalle 11 alle 13, ci sarà il mio collega Peppe Carrozza con Around the City. Quindi una musica, sempre musica qui a CRM Happy Radio. La musica vi fa svegliare, spero vi faccia svegliare sempre con un bel sorriso, almeno per iniziare la giornata con una marcia in più. E appunto, ecco, soprattutto ora è il fine settimana che si appresta ad arrivare, questo penultimo fine settimana, ma possiamo dire l'ultimo fine settimana estivo. E però appunto c'è chi è iniziato a lavorare ed è un po' dura la vita al lavoro dopo un po' una lunga vacanza estiva. Però uno studio condotto dall'Università di Copenaghen e pubblicato su Symbolic Interaction afferma che la pausa caffè, quindi quella che si effettua durante le ore di lavoro davanti alla macchinetta, ricordando un po' le gag di Camera Caffè dei pigri Luca e Paolo, afferma che aiuta l'impiegato a resistere allo stress da ufficio, socializzando anche con i colleghi. Quindi in questo studio portato avanti su dipendenti del pubblico impiego si è osservato che i gruppetti di colleghi che si formano al bar o magari davanti appunto alle macchinette del caffè nei corridoi dell'ufficio fanno bene l'impiegato, aiutandolo a reggere la tensione lavorativa. Queste pause sono importanti per la socializzazione e lo scambio di opinioni professionali, utili anche a sfogare le proprie frustrazioni lavorative. Insomma, naturalmente non bisogna avere il capo accanto, naturalmente. Comunque bisogna andare quindi più spesso, quanto più possibile, al bar quando si sente appunto giù di morale o

coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring enough. Is it enough? I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stand it, I'll find a way to rock. Questa è la canzone di Naut Boy a CRM Happy Wake Up. Sono le 10:37, ancora abbiamo circa mezz'oretta per stare insieme, per raccontarci anche altre nuove notizie più stravaganti. Infatti questa ci viene sempre dalla Corea, sempre lì fanno delle cose più stravaganti, ma possono anche dire lo stesso di noi. Infatti viva la diversità culturale e soprattutto ideologica, e questa proprio ha da essere commentata abbastanza, perché i coreani ritengono che le borse sotto gli occhi sono una vera bellezza estetica, mentre qua appunto gli occidentali vedono appunto le borse sotto gli occhi come l'incubo di molte donne che fanno di tutto per eliminarle o nasconderle attraverso il make up, attraverso anche la chirurgia estetica. In Corea invece queste borse vengono valutate abbastanza, anzi fanno interventi estetici per farseli fare proprio sotto agli occhi, anche e aiutarsi con dei rigonfiamenti appositi fatti con elementi particolari cosa usano. C'è sembra un filo trasparente che appunto mettono sotto agli occhi per creare questo rigonfiamento, e quindi c'è un kit apposito, pensate, per il rigonfiamento in modo temporaneo di queste borse. Vedete un po' la differenza culturale, ma quindi, come dicevo, anche ideologica, di chi qua in Occidente si fa interventi estetici per togliersi queste borse da sotto gli occhi, che esprimono stanchezza, oppure proprio è un fattore appunto fisico. Però invece in Corea, in Oriente, invece queste borse vanno a fare appunto attraverso gli interventi estetici. Guardate un po', quindi vedete un po' la stranezza dei nostri umani. Ma ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me: potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonando al 0921-92-32-92. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees.

Questo era il grande Vasco Rossi con L'uomo più semplice. E nel mentre parliamo appunto di semplicità, di ritorno alle origini, arriva una nuova tendenza fitness mondiale, ossia la ginnastica paleolitica. Ebbene sì, e un po' si ritorna al fitness naturale, ossia quello che facevano appunto i nostri progenitori per esigenza appunto di sopravvivenza. Appunto i trend internazionali sottolineano il successo dell'esercizio fisico nella natura, ripetendo i gesti un tempo abituali per i nostri progenitori, come spostare i tronchi di legno oppure correre a perdifiato su sentieri scoscesi, saltando, evitando ostacoli e così via, anche per sfuggire ai predatori, quindi scalare gli alberi ramo per ramo, magari anche a piedi nudi. Tutto questo si fonda sulla filosofia che la natura è la vera palestra, ossia il luogo ideale in cui scolpire il fisico. Infatti gli ambienti dicono, si dice appunto che gli ambienti indoor, quindi interni, sono artificiali e rendono più rapido e inesorabile l'invecchiamento del nostro corpo. E poi naturalmente abbiamo una visuale comunque sempre identica, sempre la stessa, che un po' ci porta anche alla routine dei nostri esercizi fisici. Invece appunto il fisico umano appunto dicono che ha dimenticato come ci si muove, è ora di tornare alle origini. Infatti sarà per la voglia di mantenersi nell'elemento, sarà anche per la voglia di stare a contatto con la natura propria dell'uomo, che appunto ci sono vere e proprie palestre ancestrali all'aperto nel metodo, e si possono trovare in Messico, in Brasile, Thailandia, Costa Ricca e Spagna, nelle location appunto selvagge in cui la natura la fa da padrona. Ma ci sono anche questi corsi si tengono anche nelle città statunitensi ed europee come Londra, Berlino e Barcellona. A New York ad esempio esistono gruppi che si riuniscono per allenarsi a Central Park. Naturalmente non ci sono attrezzi da palestre, neppure calzature specifiche, semplicemente si sfruttano gli elementi offerti dalla natura come rocce, tronchi e rami d'albero, naturalmente prestando attenzione a muoversi senza causare danni. Veramente una palestra d'eccezione, una tendenza che sicuramente farà tanto successo, anche perché l'uomo appunto, come dicevo prima, dal profondo sente questo bisogno di contatto con la natura. Adesso Hola con I'm in Love. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not, but I'm in love, I'm in love. Somebody curb this Cupid, wake me up or lose me, I messed it up, I messed it up, wow, turn me upside down, this girl, turn me inside out, this girl, what you want me to say, I messed it up, I messed it up, excuse me. Call my name. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh-oh, things you never say to me, oh-oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. E con questa frase di Oscar Wilde vi saluto, vi auguro un buon fine settimana in allegria e in compagnia, e stanno attenti un po' a quello che mangiate, ecco, nel senso regolatevi un poco, dato che se state facendo appunto l'educazione alimentare è giusto che la proseguiate. Però lunedì non ci sarò, quindi noi ci risentiremo e ci rivedremo venerdì dalle 9 alle 11 sempre qui con CRM Happy Wake Up, per svegliarvi sempre con un sorriso in più e con una voglia in più di ascoltare la nostra musica, la bella musica di CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. Ciao ciao da Patrizia Curreri, ciao ciao, presto!